Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Ben ritrovati a Voci d'impresa, riprendiamo il filo della storia di Sergio Dompé, presidente di Farmindustria, nipote del fondatore dell'omonima casa farmaceutica e anche presidente di Assobiotech dal 1998, l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie. A lui abbiamo chiesto come fa a conciliare tutti questi impegni, casa, vita e lavoro. La suddivisione della mia giornata in fondo è molto tradizionale, grandissimo spazio al lavoro, grande spazio al lavoro associativo che ti porta, se vuole, a dilatare gli aspetti di cui abbiamo appena parlato, perché incontri i presidenti delle associazioni, incontri professionisti, incontri scienziati. Ho avuto tanti privilegi di condividere momenti belli, dal recentissimo compleanno della nostra straordinaria Rita Levi Montalcini a Dulbecco, alle vacanze con Kerry Mullis, che è il Nobel che ha inventato la polymerase chain reaction, che è la catena a reazione delle polimerasi, che è il sistema di duplicazione del DNA, insomma è un'invenzione importantissima, a personaggi più vicini a noi come Umberto Veronesi. E poi, oltre a questa vita associativa e vita aziendale, io ho due splendide figlie, una moglie che adoro e con cui ci divertiamo, perché noi ogni tanto andiamo anche alle feste, andiamo anche di qui, cioè cerchiamo di avere un mix e qualche volta con qualche ora di sonno in meno, quando certo. Ci se la fa, ogni tanto invece non ci se la fa e ci si ferma un secondo, credo che sia fisiologico. Volevo anche chiedere questa particolarità, il fatto dell'economia della conoscenza, le particolarità che riguardano per esempio la ricerca nel vostro settore. Ecco, quali sono le strade da percorrere per continuare su questo campo, sul campo farmaceutico? Sembra quasi che si sia scoperto tutto, no? Dall'accezione invece. Guardi, il meccanismo della conoscenza è bello, ma è impietoso. Più conosci e più ti accorgi di non sapere, e più vai avanti con la ricerca e più ti rendi conto di non riuscire a dare delle risposte terapeutiche adeguate al bisogno, alle necessità della gente. Quindi che i due segnali più forti che io ho ricevuto dal mio lavoro sono: uno, la necessità di guardare al mondo con grande umiltà, nel senso bisogna essere consci dei propri limiti, anche se orgogliosi del proprio ruolo e della propria voglia di fare. E dall'altra parte la necessità sempre più forte di una gestione della complessità che in molti casi non è ancora ben definita neppure dai sistemi paese. Poi parliamo di futuro. Adesso, in questo momento, il confronto con l'estero, che pone anche la questione dei controlli, pone anche la questione della crisi. Ecco, come vi muovete in questo momento nella geografia anche mondiale? Perché ormai tutte le pedine che si muovono sono come un go down e praticamente si toccano l'una con l'altra. Ecco, come vi potete muovere in questo momento in cui comunque anche il settore farmaceutico ha una concorrenza forte, soprattutto però bisogna mantenere la guardia alta sui controlli? Ma il controllo è l'elemento essenziale di qualsiasi lavoro, e secondo me il controllo nella sanità, il controllo per quanto riguarda lavoro delicatissimo come il nostro è un dovere, e quindi noi non soltanto siamo apertissimi a questo, ma cerchiamo di tenere, di incentivare, di far comprendere anche il nostro gradimento nei confronti di tutte le istituzioni che ci sono davanti per incrementare i controlli sul settore sanitario in generale, compreso il nostro. Questo credo che sia un segnale importante. Abbiamo fatto più convegni alla presenza della magistratura, della Guardia di Finanza, del Nucleo di Sofisticazione, dell'AIFA, anzi siamo orgogliosi di aver fatto negli ultimi mesi una battaglia di fianco al professor Rasi dell'AIFA per dotare l'AIFA e l'Agenzia Italiana del Farmaco, per dotare l'agenzia di 200 persone in più che verranno dedicate ai controlli. Quindi questo è naturalmente un discorso obbligato, secondo me. Poi diverso è come fare a procacciarti la competitività di cui hai bisogno, che certo, sicuramente è un sistema, diciamo, complesso, dove non esiste una risposta corale. Ogni impresa ha la necessità di creare i presupposti per uno sviluppo. Noi naturalmente lo stiamo facendo e abbiamo scelto le malattie rare come tema di confronto e la biotecnologia come minimo comune denominatore, ma ci sono tante altre aziende italiane che in questo momento stanno facendo un lavoro incredibile, piccole, medie e grandi, per cui lei trova piccole aziende, ce n'è una in particolare senese, la Philogen, scritto PH, Philogen, che ha appena avuto la copertina di Blood, che è una delle riviste più importanti che ci sono al mondo, e avere la copertina non è, come lei può comprendere, sì, sì, cosa da tutti i giorni. Allora, la cosa che mi interessava, come dire, in ultimo, per dare proprio la, come dire, una linea guida a chi ci ascolta, è quella delle, diciamo, di guardare l'attualità adesso e un po' il futuro. Cioè, in fondo, le biotecnologie, che è il campo più avanguardistico che è stato scelto anche dalla sua azienda, ha un'implicazione magari attuale, che è quella della ricerca, che è quella di determinate scoperte, diciamo, nel tempo, e poi un'implicazione futura. Ecco, c'è una tenacia che va un po' al di là delle tendenze attuali, cioè, nel senso, quello che spesso si dice è che anche nelle malattie si va dietro, come dire, delle tendenze, delle emergenze, delle mode. Guardi anche soltanto le psicosi pubbliche sull'influenza. Ecco, questo tipo di sentiero che vi siete scelti, quali implicazioni ha adesso, e ovviamente a differenza di queste mode, tra virgolette, e quale futuro ha per quanto riguarda proprio lo sviluppo dell'azienda? Ma innanzitutto diciamo che in qualsiasi lavoro, ecco, tu devi guardare alla moda con attenzione, ma avere la capacità di tenerti fuori, mi spieghi, da trend che non ti portano da nessuna parte. Ecco, e questo viene ancora di più ad essere obbligatorio per chi come noi fa un lavoro, che è un lavoro fatto di tanta fatica, con dei risultati che quasi sempre non sono proporzionali a quello che tu desideri riuscire a dare, ma tutti insieme questi risultati, presi nella loro complessità, hanno fatto in modo di contribuire a portarci all'allungamento pazzesco dell'aspettativa di vita che abbiamo oggi nei paesi sviluppati come il nostro. Poi, ecco, attenzione, perché spesso e volentieri i giornali, le televisioni, le radio, ecco, tendono a, in pochi secondi, a dare delle notizie che in qualche modo devono bucare. Qui c'è una specie di piccolo mostro, perché dovendo fare questo, la notizia pacata, la notizia garbata, la notizia, diciamo, proporzionata a quello che è, siccome richiede magari 2 o 3 minuti di spiegazione, non trova spazio se in angoli di approfondimento che poi vengono seguiti in genere da pochi aficionados, come si dice. Ecco, attenzione che dietro l'ipotesi pandemica ci sono dei fatti tecnici improbabili ma possibili e gravi, quindi, diciamo, non è soltanto una questione di moda. Lì dietro, diciamo, c'è la necessità di prepararsi a fatti che potrebbero anche essere gravi, anche se, ripeto, con un indice, per fortuna, di improbabilità ancora forte. Ma lei mi insegna un po' come la situazione del terremoto. Ecco, era, diciamo, molti secoli che non c'era un evento di questo genere nella zona dell'Aquila, e tutti ipotizzavano che con le strutture di oggi la città potesse andare avanti, almeno per gli insediamenti, diciamo, principali. Ecco, se non ci si fosse preparati, noi avremmo avuto l'azienda distrutta. E quindi, diciamo, nella vita bisogna anche prepararsi a degli eventi estremamente improbabili, sapendo che improbabile non può dire non si può dire in assoluto che non avverranno mai. Quindi anche sotto questo punto di vista prudenza. E per quanto riguarda il trend, le biotecnologie, paradossalmente, per chi è nell'ambito del lavoro che svolgo, sono già al passato. Oggi si sta andando verso, diciamo, delle nuove sottoconoscenze nell'ambito del grande tema delle biotecnologie, la genomica, la proteomica, la capacità di individuare delle condizioni patologiche solo per determinati individui che hanno alcune alterazioni, la capacità di andare verso microcosmi in cui non si studia soltanto la medicina per l'individuo, ma si individua anche la specificità della fase della malattia addirittura. Tutte cose molto belle, molto affascinanti, molto complesse e che rendono il nostro lavoro tutt'altro che banale. Qual è la scoperta che si cerca, si insegue, si desidera? Oppure le scoperte, e se è possibile fare un ragionamento di questo tipo? Cioè, quali sono, dov'è che si convogliano molti sforzi? Quali sono gli obiettivi che si stanno cercando? Allora, sogni nel cassetto ce li abbiamo tutti e purtroppo la lista delle delusioni è molto molto più nutrita, diciamo, di quella dei sogni nel cassetto. Ecco, noi ci stiamo impegnando in alcune condizioni rare, tra cui quella che spicca di più, quella che ci piacerebbe più realizzare, ha a che fare con il trapianto, in due o tre condizioni particolari di trapianto dove pensiamo di poter dare, diciamo, un contributo. Però il fatto che pensiamo di dare un contributo, purtroppo per noi e anche per gli altri, diciamo, non vuol dire automaticamente che lo daremo, ci stiamo lavorando. Termina qui la nostra puntata di oggi di Voci d'Impresa. Ci ritroveremo con un'altra storia. Un cordiale saluto da Anna Marino.